te pensa così, per ore e ore. E te voglia così, te voglia ancora. E sì che sta non è amore, ma noi che campiamo a fa. E sì che io voglio esce soli, te voglia pensare. Perché senza te non so niente. E ti senta così, come io sangue in te vengo. Se chiudo l'occhio sì, ti voglio assai bene. E sì che sta non è amore, ma noi che campiamo a fa. E sì che io voglio esce soli, ti voglio pensare. Perché senza te non so niente. Perché senza te mi sento, non sapeva manca lui. Perché senza te tu giuro, e non credo più a nessuno. E non credo più a nessuno, a nessuno, a nessuno. Perché senza te non so niente. E sì che sta non è amore, ma noi che campiamo a fa. E sì che io voglio esce soli, te voglio pensare. Perché senza te non so niente, perché senza te mi sento. Non sapeva manca lui, perché senza te tu giù. E non credo più a nessuno, e non credo più a nessuno. Perché senza te non so niente. Perché senza te non so niente. Che senza te non so niente. Senza tensione.